Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Ci siamo in anticipo, sono in questo istante le 14:58:59 secondi, quindi le 14:59 a Radio 24. È il momento di dare il via al sabato del villaggio, dove, come sempre, il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. E poi nella terza ora, dalle 17 alle 18, sempre in diretta, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Come contattarci, come tenerci compagnia in questo sabato pomeriggio? Come sempre il numero per i vostri SMS e WhatsApp, mi raccomando, memorizzatelo sempre nella rubrica del telefonino. Dico parole a caso questo pomeriggio, chissà come mai, nella rubrica del telefonino. Salvate il numero 349-238-6666, 349-238-6666 per i vostri SMS e WhatsApp, ma come sempre c'è il mio account di Twitter, @MartaCagnola, l'hashtag cancelletto ISDV come il sabato del villaggio, e poi c'è anche il mio account di Instagram, @MartaCagnola. Tra qualche istante metto una fotina per anticipare il primo argomento. Vabbè, intanto gli argomenti della prima ora sono questi: i film in sala nel weekend, lo sapete, come sempre ogni sabato, l'appuntamento con le tecnologie con Enrico Pagliarini. Enrico ci aggiornerà su tutto quello che abbiamo visto questa settimana al Mobile World Congress di Barcellona, quindi telefonia, un argomento che appassiona tutti, che mi ha fatto dannare questa settimana, poi vi racconto. Con il gastronauta invece parleremo di tendenza Salento, ma prima ci facciamo una scorpacciata di serie TV e non solo. Questa musica che ci riportava sempre a Suburra, perché era il film che avevamo seguito molto moltissimo quando è uscito in Italia, ci era piaciuto molto. Ebbene, questo film sta per diventare serie TV. È una delle novità che ha annunciato questa settimana Netflix a Berlino. Netflix ha radunato giornalisti da tutta Europa per 1 o 2 giorni a Berlino, che si chiamava See What's Next, cioè vedrete cosa ci sarà in tutto quest'anno, in tutti i prossimi mesi su Netflix. E quindi vi aggiorniamo un po' su tutto quello che è successo partendo proprio da Suburra. Allora, Suburra diventa una serie televisiva diretta da Michele Placido, che così ha raccontato perché ha fatto Suburra e cosa sarà questa Suburra. Ce l'abbiamo quasi, ditemi quando ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, Michele Placido. Penso che abbiamo, come dire, la storia necessaria come cinema italiano per poter entrare finalmente nella grande serie internazionale, dove tra l'altro si hanno a disposizione più soldi e più tecnologia. La cosa bella di Netflix è sicuramente questa, che si può andare oltre. Cioè, noi in una serie televisiva prodotta in Italia, tradizionale, dalla Rai o da un'altra televisione italiana, sicuramente noi siamo già censurati. Noi già partiamo scrivendo una storia in cui alcune cose non si possono dire, perché riguarda una certa politica, un certo potere religioso, un certo potere mafioso. Per cui i sceneggiatori, ma anche chi produce, si mette al riparo. io stesso sono andato, non pensavo di avere una libertà tale. Per esempio anche nella distribuzione dei ruoli degli attori. Non avere i soliti attori italiani, piccole star o star, legati a un gioco di distribuzione della televisione generalista. Qui ho preso attori che a 40 anni, a 50 anni, per la prima volta sono protagonisti all'interno di una storia. Questa è la grande democrazia di Netflix. Ma prima di andare a sentire cosa ci sarà in questa Suburra, sentiamo cosa ci hanno raccontato sempre a Berlino Reed Hastings, che è l'amministratore delegato, il CEO di Netflix, e Ted Sarandos, che è il Chief Content Officer appunto di Netflix. Suburra, ha detto, è una storia straordinaria ed è grandioso poter condividere una storia così in tutto il mondo. Abbiamo quasi 100 milioni di utenti in tutto il mondo che cercano storie così. Ecco perché investiamo su questo, perché queste storie si possono portare dappertutto. European cinema, European television. Nel cinema e nella TV europea c'è una grande tradizione di storytelling e siamo molto contenti di poter usare la piattaforma di Netflix per portare queste storie in tutto il mondo. Quindi gli americani che investono in Europa e che investono in Italia partendo appunto da Suburra. Ma per sapere un po' cosa sarà questa Suburra, a Berlino con noi c'era anche un critico molto bravo che scrive sul Fatto Quotidiano, che trovate anche online sul Fatto Quotidiano, Domenico Naso. Ciao Domenico! Ciao Marta, ciao. Insomma, a tutti. Ci risentiamo dopo esserci visti in questi giorni a Berlino e dopo aver visto insieme le prime immagini di questo Suburra, che è già molto, molto atteso. Cosa ne dici tu di questo Suburra che sta per arrivare? Guarda, si è visto veramente poco, però quello che sento di dire è che l'Italia sbarca su Netflix nella sua comfort zone, con una storia crime dove c'è la politica, dove c'è la chiesa, dove c'è la mafia, quindi siamo in un solco che è già nostro da un bel po', dalla Piovra in poi almeno, anzi forse anche prima, e che in questi ultimi anni con Gomorra e con Romanzo Criminale ancora prima si è rinvigorito assai, quindi è una comfort zone, ma non è stata l'unica prova del tentativo di Netflix di sfruttare da ogni paese quello che sa fare meglio, perché forse se ne parlerà dopo, ma anche in Spagna e in Germania ci sono nuove cose e sono sempre nel solco di quelle che sono le tradizioni di questi due paesi. Quindi andiamo a sentire Italia, abbiamo detto, Suburra, quindi tratta dal libro di De Cataldo, di Bonini, lo hai detto, mafia, chiesa, politica, un intreccio romano che aveva poi un po' predetto quello che sarebbe stata mafia, sì, esatto, capitale. Invece ad esempio in Germania, la Germania cosa ci offre? Allora, la Germania ci offre Dark, che è un thriller molto cupo, dove però si trova anche un tocco, un bel tocco di Stranger Things, perché da quello che si è visto la storia è molto simile, c'è un bambino che scompare e c'è qualcosa di sovrannaturale dietro, quindi sembra anche sulla falsa riga del successo cult di questi ultimi mesi. La Spagna invece si offre Las Chicas del Cable, che è una storia molto rosa, come ormai dalla Spagna arriva, con un bel gruppo di giovani attrici, diciamo alcune già molto note perché hanno fatto film con Almodovar, altre un po' più nuove, e pure lì viene quello che insomma abbiamo sempre visto in questi ultimi anni dalla Spagna, cioè un qualcosa di rosa, ma non banale. Ecco, chi si aspetta Il Segreto? No, questo no. Siamo a un livello un po' più alto. Siamo più verso, non so, Velvet. Non è un caso che la produzione sia sempre quella, poi. Quindi siamo nel solco di un feuilleton un po' rosa alla spagnola, ma di qualità alta, come insomma Netflix chiede anche. Allora, poi ritorni veramente attesi. Credo che la star in questo See What's Next di Berlino sia stata Bob Odenkirk, quindi Better Call Saul. Credo che alla fine lui sia stato quello che ha attirato più curiosità. Sì, anche perché rispetto allo scorso anno è stata una presentazione un po' più in sordina, devo dire. lo scorso anno ad aprire tutto c'era stato Kevin Spacey addirittura, e quest'anno forse già forti di una presenza più, diciamo, radicata, si è insomma di più al contenuto che alle facce. Però Bob Odenkirk è stato l'unica forse star di questi giorni, molto amato dai giornalisti che sì. Ho visto scattare selfie, cioè non solo noi che siamo di solito i più caldi, ma anche gente dall'Austria o da paesi molto più algidi. È stato, poi la sua storia è molto bella, è molto interessante, perché lui quasi per caso, dopo anni di crisi, lui insomma nasce come comico in fondo, e dopo anni di crisi stava quasi per mollare tutto, ha il colpo di fortuna di Breaking Bad con un personaggio che non doveva essere importante all'inizio, e questa è anche una storia che ci hanno, diciamo, raccontato anche altri talent in questi giorni a Berlino, come Uso Aduba, che è la splendida Crazy Eyes di insomma Orange is the New Black. E insomma Bob dice: io firmo per quello che doveva essere un ruolo piccolo, poi diciamo, esplode Breaking Bad, poi esplode il personaggio di Saul Goodman, e grazie a Netflix nasce anche lo spin-off, che ormai è un cult, anche se il grosso del pubblico italiano chiaramente forse non sa nemmeno di che parliamo, però a Netflix, ecco, su Better Call Saul forse è meglio che vada a spendere un po' di ore, perché ne vale la pena. Hai citato Uso Aduba di Orange is the New Black. Un capitolo importante è stato in questi giorni quello delle donne forti, che sono una parte molto, molto viva delle serie TV americane. Netflix appunto ha dedicato proprio un capitolo a questo, cioè girl power, donne sempre più forti, sempre più importanti nelle serie TV, donne che fanno ridere, che sanno fare tante cose, da Chelsea Handler, che entrambi adoriamo, a appunto le attrici di Orange is the New Black, Rashida Jones, la figlia di Quincy Jones, non come attrice, noi ce la ricordiamo in Parks and Recreation ad esempio, ma come produttrice, peraltro di una serie assolutamente sì, un po' scandalosa, un po' rischiosa, cioè si parla di porno e donne. Sì, guarda, la parte sulle donne, il panel è stato molto bello, forse più bello di tutti i due i giorni, però quello che mi colpisce molto, uno che segue Netflix come me o come te o come chi ha questa passione o chi lo fa per mestiere, sa che Netflix ha investito moltissimo sulle donne, sui ruoli forti da donne, sui, insomma appunto anche su Chelsea Handler, che fa uno show, un talk show su un servizio streaming, quindi è una cosa abbastanza rischiosa. Poi con Orange is the New Black già da qualche anno ormai abbiamo storie tutte al femminile, anche con risvolti abbastanza importanti e scabrosi. Questo credo sia quello che manca da noi, dove i personaggi delle fiction per le donne sono le parrucchiere, le commesse, le insegnanti quando va bene. Ecco, Netflix da questo punto di vista ha molto da insegnare, perché sta puntando molto, lo ha anche fatto, faccio un esempio che va anche al di fuori dello show business, ma sotto la data del voto in America, il talk di Chelsea Handler era un trionfo di figure di donne forti che insomma andavano lì a parlare di Trump, e soprattutto ad appoggiare Hillary, perché quello era stata la linea un po' scelta da Chelsea Handler. E quindi sulle donne c'è da imparare tanto, e sicuramente Netflix è forse la, diciamo, realtà che dà più spazio al tema, ai temi di genere e a tutta una serie di cose che da noi forse sono ancora sotto il tappeto. Allora, dimmi Domenico, cosa ti ha appassionato di più e cosa attendi con più ansia? Guarda, sicuramente da italiano ho molte attese per Suburra, anche se temo il cliché. ma è quello che vogliono in fondo, ecco. Fuori dai confini, quindi forse è anche giusto che noi diamo quello, se si vuole essere un po' più realisti. Insomma. Cioè, come dico io, è come il volo, chi si stupisce del successo del volo all'estero è quello che sì, esatto, gli stranieri vogliono da noi. Quindi la cosa che, di cui ho più paura è la sticas del cable. Ah, quella spagnola. Io spero di tagliarmi, ma mi sembra un po' troppo al di sotto degli standard Netflix, anche per contenuti e per concetto, insomma, al fondo del prodotto. Però c'è da dire che negli ultimi tempi un po' si è visto questo livellamento non verso il basso, ma verso una qualità media, e forse questo dipende anche dal fatto che Netflix ora vuole fare cassa, vuole fare numeri, quindi cerca sempre un bacino più largo, ecco. Allora, io invece sai cosa attendo moltissimo? Abbiamo visto qualche immagine, Glow, quella sul wrestling femminile degli anni 80, dello stesso team di Orange is the New Black, creata da Genji Kohan come Orange is the New Black. Quella mi incuriosisce molto, wrestling femminile anni 80 secondo me potrebbe essere molto divertente. Sì, c'è tutto per essere, insomma, un piccolo cult. Sì, infatti, se è ben fatta secondo me ci divertiremo tantissimo. Sono molto contenta di aver avuto Domenico Naso, che anche un amico, anche io, anzi grazie, chiocciola grazie. Domenico Naso su Twitter, così lo seguite anche su Twitter, e non solo sul Fatto Quotidiano. Grazie per essere stato con noi al Sabato del Villaggio, ciao Domenico. Grazie a te, ciao. Un abbraccio. E così questa settimana abbiamo dedicato il nostro spazio, che più o meno tutte le settimane dedichiamo alle serie TV, a Netflix, perché nelle scorse settimane abbiamo parlato un po' di serie italiane, insomma ogni tanto cambiamo piattaforma, cambiamo mezzo, ma insomma sempre di serie TV parliamo. Sono le 15 e 14 minuti, quasi 15, quindi diamo la linea al traffico e poi torniamo insieme, perché tra poco avremo con noi, come sempre, il nostro gastronauta. Il Sabato del Villaggio. Avete capito che siamo in Salento, perché la pizzica, la taranta, insomma, sono i ritmi tipici della zona. Allora, perché abbiamo scelto questa musica? Lo abbiamo scelto perché, insomma, ci ha detto che il Salento è la tendenza del momento e noi di lui ci fidiamo sempre, del nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide! Ciao, ciao, ti ha pizzicato la taranta, quindi sì, ho sentito. Sì, stavo ballando un po' in studio. Sicuramente questa musica porta al ballo, ma prima di tutto perché, ora voglio spiegare perché tutto sommato la cucina pugliese era già da anni che è arrivata nelle città metropolitane, c'è stato il periodo, diciamo, dell'immigrazione all'interno dell'Italia degli anni 70, 60, 70, che moltissime città sono state invase da ortofrutta pugliesi, perché quasi ovunque, a cominciare da Milano o da altre città, se uno va in un negozio ortofrutta sente quell'accento molto particolare fatto molto bene da Abatantuono. Ma allora dice, beh, non c'è niente di nuovo. No, invece c'è di nuovo. Anche alcuni piatti della Puglia sono già arrivati da anni e hanno invaso, diciamo, il continente, compreso quel purè di fave e cicoria, che è diventato un piatto molto, molto richiesto, perché è un piatto, diciamo, che va verso la tendenza futura, che è quella del, sicuramente oggi, del vegetariano e del vegano, quindi erano già, come posso dire, all'avanguardia. In effetti la cucina pugliese è una cucina molto sana, perché cerca sempre di mescolare pasta, carne o pesce con le verdure. Ma perché? Cosa è successo allora di nuovo negli ultimi, diciamo, 2-3 anni? Che il boom del Salento, portato il boom, diciamo, con questa notte della Taranta, soprattutto a Melpignano, che forse è il più grande festival di cultura popolare, una cosa immensa ormai, ha fatto conoscere sempre di più questo bellissimo territorio che, oltre alla Taranta, sicuramente ha delle bellissime spiagge, ha una bellissima campagna, delle bellissime masserie, ma ha portato tutta una serie, se vogliamo, di mode che sono in quel territorio specialmente d'estate. E allora io penso ad una innanzitutto, il pasticciotto. Ecco, il pasticciotto è qualcosa che fa venire immediatamente, appena lo dico a molti, l'acquolina in bocca. So cos'è? Che sei un grande fan. Sì, sono un grande fan, specialmente quello composto da pasta frolla, farcita di crema pasticcera con dentro l'amarena e poi cotto in forno. È un, diciamo che è un dolce da prima colazione, però è anche nella cucina di quel territorio, che viene usato anche a mezzogiorno o alla sera, fatto in maniera non, perché ora diciamo che ci sono molte pasticcerie che lo fanno in maniera seriale, però ci sono molte trattorie che continuano a farlo, diciamo, in maniera molto tradizionale e unica. Ecco, la cosa interessante che ho trovato di questo pasticciotto è che nasce intorno a metà del Settecento a Galatina, durante la festività di San Paolo, guarda caso che era guaritore della Taranta. Ah. Quindi c'è questa coincidenza. Comunque dicevo, non solo il pasticciotto è arrivato, ma sono arrivati tantissimi ristoranti che hanno portato tutta una serie di piatti che vanno al di là delle fave cicorie e il pasticciotto. Ad esempio a Milano ci sono una serie di locali che fanno ciceriettrie. Ecco, spieghiamo subito cosa sono, traduciamo. Ciceriettrie sarebbe una pasta fresca fatta con i ceci e si mangia anche con il cece nero, che è proprio una peculiarità di quel territorio. Quindi è diventato un piatto che gira con questa peculiarità che riporta proprio al territorio. Poi ci sono i panzerotti ripieni di varie cose, anche questi sono succolenti perché tutto quello che è fritto sicuramente piace. E poi è un momento in cui la pizza fritta funziona anche nel, diciamo, da Napoli, e Napoli l'ha portata in giro per l'Italia, e quindi i panzerotti ripieni sono un'altra cosa molto interessante che stanno diciamo aumentando la loro presenza. Ad esempio in un piccolissimo locale, perché sono piccoli locali pugliesi, diciamo di nuova generazione, c'è uno che si chiama Modi Puglia, il quale fa anche delle frittelle salate con dentro tantissime cose veramente molto molto intriganti. Poi ovviamente ci sono le orecchiette, bene, insomma le orecchiette si conoscevano già, diciamoci la verità, però sicuramente ora sono più presenti, sono quelle tradizionali fatte appunto in quel territorio. E ancora ci sono anche dei bar che stanno nascendo, e io ne cito uno che si chiama Santi Paoli, che è dove il panzerotto e il pasticciotto e il caffè, anche un caffè estivo fatto con ghiaccio e anice, vanno per la maggiore. E devo dire che c'è un raduno veramente di abitanti, ex abitanti del Salento, che poi sono arrivati appunto a Milano o nelle altre città. Non è finita, cioè non sono arrivati anche i vini, perché sappiamo la Puglia è una delle regioni più ricche di vini, probabilmente ancora non ha quelli che vengono considerati dei leader che hanno trascinato tutto il territorio come ci sono in altre regioni, però la quantità del vino prodotta in Puglia è veramente molto importante. Certo. Tant'è vero che tanti anni fa si diceva che molti vini importanti italiani venivano messi sul mercato grazie a dei vini che arrivavano dalla Puglia, dalla zona di Barletta. Oggi invece sicuramente i pugliesi, come si sono fatti molto più furbi, etichettano il loro vino. E allora io qui devo citare il Primitivo di Manduria, che è un grandissimo vino, il Negro Amaro, che non è il complesso musicale, ma è un grande vino. Poi ce n'è uno che è difficile da trovare, però io lo consiglio a qualche esperto che in ascolto, che va in quei territori. Si chiama Susomaniello. Susomaniello è un vitigno autoctono che si trova molto molto diffuso appunto nella zona del Salento. E poi c'è anche la Malvasia Nera. Quindi diciamo che di vini ce ne sono, e poi dulcis in fondo dobbiamo ricordare che la Puglia, non voglio portare via niente ai vini del Garda e dintorni, ma sicuramente il vino rosé, il vino rosato nasce nella terra appunto del Salento, perché For Rosis è stato forse il primo vino lanciato in questo paese, che era un vino rosé che ha avuto un grandissimo successo e lo ha tuttora. E a proposito voglio citare anche però dei produttori, perché c'è un produttore che è molto famoso come cantante. Forse loro hanno capito di chi si tratta. Ed è Albano, l'inossidabile Albano. Albano produce dei vini veramente molto eccellenti, quindi non è il fatto che è noto e allora vende i suoi vini solo perché si chiama Albano. I suoi vini sono veramente eccellenti, quindi va preso sul serio, perché i primi tempi, quando tanti anni fa, negli anni 70, è uscito con i propri vini, che poi erano l'azienda del padre, tant'è vero che uno dei vini inizialmente si chiamava Don Carmelo, il Don Carmelo, che era il nome del padre. Sì. Quindi sicuramente, ma Albano già da allora aveva messo sul mercato dei vini molto interessanti, continua a produrre, quindi non lasciatevi fuviare dal nome famoso, ma assaggiate quei vini di Albano, perché secondo me ne vanno la pena. Poi c'è un'altra azienda vinicola intrigante con cui si chiamano Le Due Palme, ecco, questa qua è un'altra azienda importante. Poi quello che è il consiglio che vi do, e nel Salento vale la pena di andare a vivere per qualche giornata in queste aziende che producono vino o nelle masserie, e vivere quell'atmosfera, vivere anche diciamo la cucina, e vivere un po' anche quell'ambiente molto particolare, che sicuramente d'estate è il periodo migliore. Peccato che ormai il Salento sia stato scoperto un po' in tutto il mondo, andargli in agosto, insomma, vai. Bisogna andare quando il tempo è bello, fortunatamente la stagione è lunga, quindi non è necessario andarci in agosto. Forse a maggio andate nel Salento, perché appunto poi devo dire che è ancora rimasto molto, molto tradizionale, locale, per il cibo, per il vino, e quindi sicuramente si godono veramente delle ottime cose, anche dei dolci, oltre ovviamente al pasticciotto. Questo pasticciotto. Davide, abbiamo un paio di minuti per la chicca della settimana. Che cosa hai scoperto di nuovo? Ma oggi vi porto a Milano in una trattoria che prima si chiamava Rovello 18, uh-huh. che poi ora si chiama solo Rovello, ed è in corso a Garibaldi, angolo Tivoli, dove, ecco, facciamo una retromarcia. Le trattorie a Milano, le osterie, non esistono più, ma probabilmente è esistito poco anche negli anni 60-70, qualcosa c'era, ma oggi è completamente scomparso. Quindi però ci sono dei ristoranti che non sono né dei ristoranti, diciamo, da stellati, da 2-3 stelle, né invece non sono osterie, ma sono delle ottime trattorie. Ecco, allora Rovello è un'eccellente trattoria, dove in cucina c'è lo chef che si chiama Michele, giovane, promettente, che ogni sera, ogni a mezzogiorno, tira fuori dal cilindro qualche piatto che io chiamo fuori cucina, perché appunto c'è il fuori salone, in questo caso c'è il fuori cucina, c'è dei piatti che non trovate sul menù. Quindi chiedetegli dei piatti se c'è qualcosa fuori cucina, perché sicuramente qualche cosa di buono c'è sempre. Ad esempio, io un piatto che adoro sono i gnocchi di patate, peperone e ricotta stagionata. È un ottimo piatto che qualche volta magari non lo trovate sicuramente in nel menù. Si parte dagli antipasti. Gli antipasti sono molto scelti in giro per l'Italia. C'è un'ottima spalla cruda non facile da trovare, un prosciutto di Dosvaldo, che è un noto produttore. Ecco, un'altra chicca è l'insalata russa. Io adoro l'insalata russa, e quindi chi ama l'insalata russa, magari per antipasto qualche cucchiaiata va benissimo. E tra i primi, oltre diciamo alla zuppa frantoiana, anche questo è un piatto che è difficile trovare, con i fagioli di Sorana, insomma non è facile, e cacio e pepe è un altro piatto che secondo me vale la pena. Ma c'è un altro fuori cucina che ha creato Michele, ed è la pasta chiamata chitarra, con puntarelle e guanciale. Ecco, e siccome c'è il boom delle puntarelle ovunque ormai, e piacciono tanto anche a me, sì, si mangiano puntarelle, questa è una novità, diciamo una deviazione, mangiarle con la pasta e con guanciale, che quindi c'è una combinazione perfetta. Poi possiamo andare anche alla Faraona ripiena, ad esempio, alla Trippa, anche la Trippa ogni tanto c'è, il galletto alla diavola, la costata di carne spagnola o di fassona, e poi ci sono tutta una serie di dolci, diciamo fatti in casa, che anche queste vale la pena, se avete ancora magari un angolino nel vostro stomaco, una cosa che vi consiglio, perché è proprio quella dove ci si lecca le labbra, insomma, mm-hmm, bisogna pulirsi molto bene, è lo zabaione. Oh, che buono lo zabaione! Però c'è un'aggiunta, ci sono i biscotti del Prost. I biscotti del Prost sono una cosa molto particolare, e chi è allergico al burro non li mangiate, però se non siete allergici al burro, mangiate. Poi c'è la tarte al cioccolato, c'è anche una tarte con cioccolato e peperoncino. E poi, ecco, dulcis in fondo, devo dire che questo locale è molto famoso anche per un'altra cosa, per i vini. I vini di questo locale veramente sono molto rari, quelli che si trovano in questo locale, perché c'è, io lo chiamo sempre un covo di chi ama i vini cosiddetti naturali. E qui spesso si trovano proprio questi produttori, come dei carbonari, ma è una battuta la mia, perché il vino naturale sembra, i vini cosiddetti naturali sembrano da carbonari. E qui veramente c'è una scelta incredibile, forse unica a Milano, ma ci sono anche tante altre bottiglie di produttori famosi, a cominciare da alcuni barolisti per finire a Brunello di Montalcino e poi ancora in tante altre parti d'Italia. Quindi un locale probabilmente dove andare. Grazie per questa chicca, Davide, al prossimo sabato, ci ritroviamo al prossimo sabato del villaggio. Grazie Davide. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, perché si sta sedendo in studio questa volta con me Enrico Pagliarini, e tra poco sarà con noi. Grazie. Il sabato del villaggio. You used to call me on my, you used to. Yeah. You used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone, late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. You used to call me on my cell phone, cantava Drake. Di solito mi chiamavi sul telefonino. Questa settimana io sono rimasta 2 giorni senza telefonino, è stato un dramma. Mi si è rotto il telefonino, io ero, appunto, lo dicevamo prima, ero a Berlino. Oh, che ansia, ormai siamo proprio dipendenti da questi aggeggi. Abbiamo tutto dentro, io avevo le carte d'imbarco, tutto, il delirio, l'ansia. Tra le persone che hanno raccolto il mio appello all'ansia, hanno cercato di aiutarmi e non ci sono riuscite, Enrico Pagliarini. Ciao a tutti, mia nonna diceva sempre meglio stare a casa. Avresti risolto il problema. Hai ragione. Io questa settimana mi è venuta in mente questa cosa perché ho preso un treno che è arrivato a Milano con 92-95 minuti di ritardo. Sì, da dove quindi... sei partito? Era Transiberiana? Ero solo in un'altra città, okay, a metà strada tra il nord e il sud dell'Italia. Insomma, quando il telefonino ti abbandona è un il delirio. Il trucco è avere 2 o 3 telefonini. Ma non ne usciremo mai. Allora, dici un po', questa settimana si è parlato, non sono diventata matta, non è che parlo di telefonini perché sono matta, ma perché è l'argomento della settimana per chi si occupa di tecnologia. Esattamente, perché a Barcellona c'è stato l'appuntamento classico di quasi primavera con il Mobile World Congress, cioè la fiera mondiale di telefonia mobile. Noi diciamo così per farci capire, in realtà non si dice più, non si dovrebbe più dire telefonia mobile, perché questo mondo si è trasformato, oggi moltissime cose si connettono a rete internet in mobilità e quindi telefonia è un modo. Ci sono tantissime soluzioni, servizi, si sta già parlando del 5G, che è una cosa che arriverà nel 2020, comincerà ad arrivare nel 2020. 2020 dopo domani. Questo sì, questo è vero, questo è vero. I protagonisti di questa fiera sono sempre quelli che chiamiamo i telefonini, cioè gli smartphone. Ma devo dire che quest'anno forse il termine telefonino lo si può riutilizzare, perché alcuni dicono che il protagonista di questa fiera, e questa la dice lunga anche sull'innovazione tecnologica che manca un po' negli ultimi mesi, sia stato proprio un telefonino. Ah, sentiamolo. Ah, ma qui me c'è poco di tecnologico, questa, Eh sì. Eh no, sì, è il Nokia Tune tratto da un valzer. Esattamente, dunque, allora, è tornata Nokia. Allora, spieghiamo, voi sapete che Nokia dopo una serie di problemi era stata acquisita, o meglio, tutti i brand Nokia erano stati acquisiti da Microsoft. L'investimento di Microsoft in telefonia mobile non è che non è andato benissimo. Adesso sono scaduti tutta una serie di vincoli di questa licenza. Nokia, che oggi è, pensate, uno dei più grandi produttori di infrastrutture di rete, antenne, apparati di rete, eccetera, Nokia ha dato, concesso in licenza l'uso del marchio Nokia a una società finlandese di fuoriusciti dalla Nokia, che fa costruire tutto in Cina. Con questa fiera è arrivata l'ufficializzazione del ritorno di Nokia nel mondo della telefonia mobile. Sono stati presentati 3 smartphone con sistema operativo Android che vedremo tra poco sul mercato anche in Italia. Ma, dicevo, il protagonista, che è stato forse anche un po' un motivo per attirare l'attenzione, è la riedizione del Nokia 3310. Ce l'abbiamo avuto tutti il 3310. Allora, il 3310 è stato uno dei telefoni di maggior successo di Nokia. È stato lanciato nel 2000, nell'autunno del 2000, quindi parliamo di quasi 17 anni fa. Allora, è stato un telefono di successo per vari motivi. Primo, era indistruttibile, poteva cadere, non si rompeva, vero, mai. Riceveva ovunque. Sì, vero. Poi altri telefoni avevano queste caratteristiche, però in quegli anni questa è stata proprio una caratteristica dirompente. Aveva una batteria pressoché infinita, che all'epoca era un po' più normale. Sì, oggi, adesso che carichiamo il telefono 3 volte al giorno. Però, quindi, aveva famoso Snake. Io non ci ho mai giocato a sto gioco, giuro. Però era una delle caratteristiche, sì. Il gioco del serpentello. E quindi, diciamo, ecco questo è uno delle tante Snake suonerie. Bravo Peter, ti vedo fresco con le suonerie. È perché siamo tutti un po' vintage dentro. Alla fine il 3310 ci ha mosso un po' di emozione. Ecco, però al di là dell'attenzione anche mediatica, perché probabilmente, no, anzi senza probabilmente, perché non è che c'erano tantissime altre novità su altri fronti, alcune novità interessanti ma non dirompenti. Non so poi quanto venderà questo telefono, perché oggi ricordiamo che il 70, guarda, 75%. A giudicare da quello che è successo sui social network quel giorno, se lo volevano comprare tutti. Poi quando poi vai poi ma posso farti una domanda di quelle mie molto intelligenti? Ma cosa ci si può fare con questo 3310? Beh, ci si possono fare le cose che si fanno con un telefono non smartphone. Cioè telefonare. Quindi telefonare, mandare gli sms e, se vogliamo, alcune forme rudimentali di internet. Ok. Perché non è che puoi fare. Però se uno usa un sistema operativo già... Non mi risulta che abbia WhatsApp, no. No. Ok, altra domanda. Tu hai detto Android e quindi Windows Phone? Windows Phone rimane su alcuni... No, perché siccome sai che abbiamo degli ascoltatori molto affezionati che ogni tanto ci chiedono over, Windows Phone... Ah. Game over. Sì, Poi parliamo di Android per i Nokia smartphone, quindi a parte questo 3310... Sì. Sono Nokia 3, Nokia 5 e Nokia 6. Sono smartphone, devo dire, fatti molto bene, hanno un sistema operativo che è Android, quello originale, genuino, perché sapete che ogni produttore ci mette qualche ingrediente proprio, e questo poi si fa sentire sul tasso di aggiornamento, sulla velocità con cui questi telefoni vengono aggiornati. Devo dire che Nokia ha fatto un buon accordo con Google e quindi dovrebbero essere telefoni che si aggiornano molto più velocemente degli altri Android. Quindi questa è penso che Nokia, soprattutto per il nome che è ancora molto noto e che si associa a telefoni molto affidabili, ecco, penso che possa nei prossimi anni vendere bene, soprattutto in questa fascia di mercato, perché questi smartphone sono su fasce di mercato medio-basse. Quindi partiamo da 150 fino a 300 euro, una cosa del genere. Ma la domanda è... The question is... non ho sentito parlare di Samsung. Allora, Samsung ha monopolizzato gli ultimi anni il Mobile World Congress, però quest'anno per tutti i problemi che abbiamo commentato, non ultimi quelli alle batterie del Note, ha un po' rinviato tutti gli annunci. Quindi la presentazione del prodotto di punta, dello smartphone di punta top di gamma di Samsung è rinviata al 29 di marzo. Ok. E quindi molti si aspettano di vedere che cosa farà Samsung. Una delle domande che molti si fanno, io stesso mi faccio, è: Samsung rincorrerà Apple togliendo il jack audio? Si è parlato molto. Speriamo di no. Cosa dici tu? Non so, sono affezionata al jack audio. Però allora guarda, quelle piroline lì nelle orecchie, questi auricolari wireless non mi piacciono per niente. Sì. Allora devo dire, si chiamano brutti. Allora quelli di Apple si chiamano AirPods. Però ci sono anche altri produttori che hanno fatto degli auricolari, delle cuffiette wireless Bluetooth. Dunque, devo dire la verità, anche questa volta secondo me ha vinto Apple. Mi spiego, io già da un mesetto così li uso quasi quotidianamente e devo dire che ti abitui molto bene. Insomma, non le perdi, perché io so che se le compro le perdo, sicuro. Io non le ho ancora perse. Ma io le perdo anche sicuro. Anche se muovi la testa velocemente, scuoti il capo, non le perdi. No, è che sono sicura che le appoggio, le dimentico, ma non ho dubbi. Allora, probabilmente, non so se già esiste qualcosa sul mercato, probabilmente uno dei prodotti che verrà venduto assieme a questi AirPods sarà magari una cordicella per tenerli attaccati. E allora si torna indietro. E siamo al punto di partenza. Beh, però attenzione, noi con gli smartphone che cosa ci accoppiamo? Una custodia. Cioè abbiamo creato un prodotto che ha bisogno di qualcosa per proteggerlo, per fare in modo che lo teniamo in modo... Non lo so, guarda, poi alla fine abitua tutto, però questa non mi va giù. Probabilmente, però giù, se pensiamo alle custodie, questo è stato il percorso che è stato fatto. Allora, io ho degli auricolari fucsia che sono bellissimi e van bene così. Tra l'altro Maurizio al 349-238-6666 mi ha fatto sorridere perché ha detto per me il 3310 era l'ovetto. Ho dovuto abbatterlo per cambiarlo. Non si rompevano mai. Distruggerlo proprio sotto una pressa. Dovevano probabilmente finire giù dalla finestra. Allora, uno potrebbe comprare i frullatori di un'azienda americana che su YouTube fa i test e frulla anche i telefoni. Per far vedere che funziona il frullatore. Sì, sì, sì. Allora, una brevissima pausa per il traffico, perché poi volevo chiederti qualcosa, anche perché mi hai raccontato delle cose gustose sul gioco, sulle console, so, delle cose carine. Vabbè, tra pochissimo traffico, poi saremo ancora con Enrico Pagliarini. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta il sabato del villaggio. C'erano anche dei remix fighissimi. Questa è la versione remix che non ci sarà sul telefono. Sì, sono pronta per andarla a ballare al Casablanca, che è una discoteca milanese che non c'è più da una vita. Ma noi ci andavamo sempre. Infatti c'è Peter in regia che ride, perché abbiamo un glorioso passato, un lontano e glorioso passato. Enrico, prima di chiederti qualcosa appunto sulle console, perché mi hai raccontato delle cose divertenti fuori onda, adesso le voglio raccontare anche agli ascoltatori. Novità sugli schermi dei telefonini? Allora, LG ha presentato il nuovo telefono top di gamma, quindi qua stiamo parlando di fascia alta del mercato, un telefono completo, ha tutto come si addice a un telefono oggi nuovo, si chiama G6, l'erede del G5. Allora, è il primo smartphone ad adottare un nuovo formato della dimensione dello schermo, cioè del rapporto dell'altezza base altezza dello schermo. Allora, 18 noni invece che 16 noni. Noi oggi siamo abituati già da molto tempo, soprattutto nel mondo dei televisori, ai 16 noni. Qui cambia il formato e diventa 18 noni. Quindi immaginate due quadrati uno di fianco all'altro, cioè la base è il doppio dell'altezza, 18 noni, 2 a 1. Alcuni si chiedono, ma perché? Per spiegare il perché, LG ha invitato Vittorio Storaro, mitico direttore della fotografia, leggendario. È andato sul palco spiegando che oggi con il cinema digitale i film vengono di fatto girati in 18 noni, cioè in 2 a 1, E quindi secondo lui, da molto tempo molti appassionati, molti esperti promuovono questo formato nuovo, e lui dice che questo sarà il formato del futuro. Non so se può avere una chance questo formato in un mondo che si è... Quindi non 16 noni come siamo abituati, anche allungato. Quei telefoni, un po' più allungato. 18 noni. Un telefonino che è un po' più un telecomando come esatto. forma. Allora, sicuramente una delle prime cose che si notano è che il telefonino, essendo appena un po' più stretto e allungato, è più facile da tenere in mano, quindi certo. È un po' più comodo, però... Sai, dipende poi quanto grande è lo schermo, perché qui stiamo parlando di proporzione dello schermo. 18 nonici può essere uno schermo da 2 pollici, 3 pollici, 5 pollici, 8 pollici, eccetera, eccetera. Concordo. Dipende, eh? Allora, mi hai detto una cosa molto divertente per quanto riguarda i giochi, perché dunque, collegandoci sì. al fatto del successo del vintage del 3310, abbiamo parlato di tecnologie in fatto di console mirabolanti in questi mesi. Però c'è una... Non so definirlo se è un ritorno, una riconferma. Allora, Nintendo ha lanciato proprio ieri la nuova Switch, che è una console che cerca di coniugare il mondo della console classica da salotto con il mondo mobile. È una console, di fatto è un tablet, è attaccato al tablet, a destra e a sinistra, sui fianchi ci sono i controller. Vabbè, noi che siamo nati con il Game Boy, con il Game Gear, con queste cose qua. È un Game Boy un po' grosso. È un Game Boyone. Esatto. Mm. E allora, dicevo, puoi usarla collegandola al televisore. Mm-hmm. Stacchi questi controller e giochi in salotto dal divano. Però tu puoi anche, riattaccando questi controller a questo piccolo tablet, puoi uscire di casa e usarla in mobilità. Quindi coniuga queste due cose. Alcuni appassionati di videogioco che l'hanno provata per giorni e giorni e giorni si sono innamorati di questa console. Nintendo è un'azienda molto brava a fare videogiochi, quindi... dietro l'angolo potrebbe esserci un nuovo successo nel mondo delle console. È un mondo che si sta sempre più spostando verso gli smartphone, c'è ancora una forte presenza e una forte competizione nel mondo delle console, soprattutto tra adesso questa nuova Nintendo Switch e poi PlayStation da una parte e Xbox. La cosa più divertente, carina, che mi è piaciuta dei giapponesi della Nintendo è che loro sono molto attenti ai giovani e ai bambini, e visto che questa console si rivolge anche alle famiglie e ai bambini, per evitare che i bambini si mettano in bocca e magari addirittura ingoino, cioè mangino le cartucce dove sono caricati certo. i giochi, le hanno trattate, queste schedine SD di fatto sono, le hanno trattate con una sostanza che è disgustosa, quindi che proprio fa schifo se te la mangi. E quindi se i bambini provano, si mettono in bocca questa cosa, sputano subito la cosa, perché... Ma sono troppo avanti. È una cosa molto semplice, sì. però è molto efficace, molto utile. Certo, no? sì, perché effettivamente è quasi banale, però... Bravissimi. Incredibile. Applausi. No, veramente applausi. Enrico, prima di parlare di cinema, visto che appunto abbiamo parlato di schermi, dei telefonini sempre più cinematografici, vorrei invece il consiglio su 2024. Allora, consigliatissimo, perché abbiamo parlato di spazio. Sapete che Elon Musk ha lanciato ha annunciato che entro il 2018 due turisti spaziali, che hanno già pagato una caparra piuttosto pesante, andranno a fare un giro attorno alla Luna. Sono due pazzi, perché è una missione molto complicata e anche pericolosa. Abbiamo parlato di questo e anche di altre cose, ma questa è quella forse la chiacchierata che mi è piaciuta di più. Molto divertente, podcast di 2024, come sempre consigliato a tutti. Grazie Enrico, stai in studio con me perché adesso parliamo di cinema. Non che mi muovo. Così sai tutti i film che escono in sala questo fine settimana. Logan, che hai fatto? Charles, il mondo non è più lo stesso. I mutanti ci sono più ormai. I hurt myself today to see if I still feel. Lei cos'è? Beneath the stains. È come te. Of time. Molto simile a te. The feelings disappear. Le serve il nostro aiuto. You are. Qualcuno arriverà. Qualcuno è già arrivato. I am still right here, and you could have it all. Abbiamo appena sentito un breve estratto di un film che sta andando molto bene questo fine settimana, una delle grandi uscite del fine settimana. Ci racconta tutto il nostro Franco D'Assisti. Ciao Franco, allora di cosa si tratta? Sì, ciao Marta, parliamo di Logan, ma in realtà dietro il titolo e il sottotitolo che ci dice tutto, The Wolverine, uno spin-off della saga di Wolverine e degli X-Men, con ancora Hugh Jackman nel suo ruolo più iconico, il ruolo di una carriera, potremmo dire, per una storia molto drammatica, molto anche struggente in certi momenti. Siamo in un futuro prossimo venturo, con i mutanti che sono praticamente spariti dalla faccia della Terra, con Logan appunto, il Wolverine che ricordavamo che fa lo chauffeur in questa situazione. A un certo punto nella sua vita irrompe una bambina, lui non ha più i poteri rigenerativi di una volta, ma appunto questo incontro ne cambierà il resto della vita. È sicuramente uno Hugh Jackman molto in palla, quello che abbiamo visto in questo film, con la capacità appunto di emozionare, oltre chiaramente di regalare azione, perché è un film anche molto crudo in certi momenti, e direi quindi un film che può piacere tanto a chi ha amato tutta la saga, non solo di Wolverine ma degli X-Men, e anche a chi si vuole avvicinare in una maniera diversa, in uno di quei film che vogliono raccontarci i supereroi un po' meno super, diciamo, e con tutte le loro fragilità umane. Franco, poi questa è una settimana con tante uscite italiane. Sì, è una settimana particolare per il cinema italiano, perché escono due film molto diversi ovviamente fra loro, che però possono accontentare due anime del nostro pubblico, quello che cerca il divertimento e quello che invece cerca il cinema d'autore. Alla prima voce ci mettiamo sicuramente Omicidio all'italiana di Maccio Capatonda, regia di Maccio Capatonda, che poi interpreta nel film anche 3-4 personaggi. A fianco a lui c'è Herbert Ballerina, c'è una straordinaria Sabrina Ferilli, per raccontare la storia di un piccolo paesino dell'entroterra abruzzese, Acitrullo, nome ovviamente immaginario, dove il sindaco, per cercare di, come dire, far arrivare gente a un paese che si sta spopolando, piano piano vanno via tutti, vanno via persino i vecchi, ecco, inventa sostanzialmente una sorta di omicidio, che è un omicidio tutto da ridere, per far arrivare i media, i viaggi dell'orrore. Ne abbiamo sentito parlare spesso anche in questi anni, quando c'è stato qualche omicidio, di piccoli luoghi che sono diventati improvvisamente famosi, arrivava la gente con le macchine. Ecco, è una riflessione però che va oltre la risata e il sorriso, quella di Maccio Capatonda. È una riflessione sulla nostra società, sull'invadenza dei media e anche sull'incapacità nostra di stare al passo con un progresso che corre troppo veloce. Un film molto molto interessante, questo Omicidio all'italiana di Maccio Capatonda, che sarà nostro ospite alla Rosa Purpurea in un'intervista, dove ci racconterà adesso alle 18 un pochino i particolari di questo film. Quindi nella Rosa Purpurea Maccio Capatonda, ma non solo. Eh sì Marta, da ospite a ospite, perché anche Ferzan Özpetek sarà nostro ospite alla Rosa Purpura, con un'intervista fatta per parole chiave relative al suo film Rosso Istanbul, che segna tra l'altro il ritorno di Özpetek nella sua Turchia, per raccontare la storia di uno scrittore che arriva in Turchia 20 anni dopo, c'è chiaramente una componente abbastanza autobiografica, per fare da editor a un regista che invece vuole scrivere un romanzo. Ma questo regista, dopo una prima notte in cui si sono conosciuti con quest'altro intellettuale, scompare dalla circolazione, e il film è tutto lì, è tutto sulla ricerca, sulle tracce che quest'uomo ha lasciato, sul ricordo, sulla ricostruzione di un'identità che ne fanno gli altri personaggi. Un film che porta Özpetek a un'analisi di quella che è la sua città di oggi. Ne parleremo anche in questo caso alla Rosa Purpurea dalle 18. Franco, dunque l'appuntamento con te dopo il giornale radio delle 18 con la Rosa Purpurea. Ciao. Grazie Marta, un saluto a tutti. Il sabato del villaggio. E rieccoci con la seconda ora del sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio. Subito i numeri per contattarci, per tenerci compagnia: 349-238-6666 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, @ Marta Cagnola per l'account di Twitter, anche per quello di Instagram. Tutto questo fino alle 18, perché staremo insieme per la seconda ora del sabato del villaggio e poi in diretta anche nella terza ora, che è poi quella di RadioTube. Ma quali saranno gli appuntamenti della seconda ora del sabato? Beh, come spesso accade, ospiti musicali che ci vengono a trovare qui al Sabato del Villaggio. Ci piace esplorare il mondo dell'indie, quello di cui si parla di più ultimamente. Oggi avremo con noi quello che è stato già definito il fenomeno del 2017. Si chiama Giorgio Poi, non è da perdere. Oggi però è il 4 marzo e quindi il 4 marzo non si può non parlare di Lucio Dalla, quindi andremo insieme a Bologna. I libri del momento con Alessandra Tedesco, ma cominciamo con i consumi e con questa vecchia canzone sempre ottima dei Marta sui tubi, eccoli qua. Un'altra sera a casa a masticare noie e surgelati. La TV vomita vacui colori, la luce dei pensieri è spenta. Programmerò il mio umore artificialmente e scriverò un saggio su come perdere tempo senza sprecare nemmeno un minuto. Vieni a farmi compagnia a fiamma di carta. Perditi con me nel labirinto di un monolocale, a coltivare il miraggio di stare con i piedi per terra sopra il pavimento di un quinto piano condominiale. Come diceva questa vecchia canzone, a fare la lista della spesa. Andiamo nel nostro spazio dei consumi, che questa volta arriva proprio solo dopo il giornale radio delle 16, a vedere non tanto cosa comprare, ma come compriamo. Quindi questa volta vi facciamo un po' giocare, perché vogliamo sapere che tipo di consumatore siete, ma soprattutto vogliamo sapere se voi sapete che tipo di consumatore siete, perché lo sapete che ci sono delle categorie, dei tipi. Io voglio giocare io per prima, voglio sapere che tipo di consumatore sono, e questa volta ci è venuta a trovare in studio la nostra Cristina Lazzati. Ciao Cristina. Ciao a tutti, ci hai preso gusto a venirci a trovare in studio, eh? Sì, perché sta piacendo, benissimo. Si sta bene a Radio 24. Salutiamo la nostra Maria Luisa Pezzali, che questa settimana non c'è, si sta godendo ogni tanto anche lei un po' di meritato riposo, ogni tanto ce lo guadagniamo pure noi. Cristina, allora giochiamo un po' per capire che tipo di consumatore sono, perché questa volta non abbiamo delle chicche, ma abbiamo una chicca che è una ricerca molto divertente. Sì, infatti una ricerca di GFK che è stata realizzata per ADM, che è l'associazione di distribuzione moderna, che ci ha un po' raccontato 5 identikit di quelli che sono i consumatori tipo italiani. Quindi è andata a sentire in tutta l'Italia un campione e sono emersi 5 che sono anche abbastanza ben posizionati, nel senso che abbiamo i cacciatori, che siamo al 15%, i prudenti il 23%, poi abbiamo i pragmatici, i brand fan e gli esperti, più o meno, che si attestano più o meno intorno al 20%. Allora chiediamo agli ascoltatori se si sentono pragmatici, cacciatori, prudenti, brand fan o esperti. Allora, cominciamo a vedere come sono fatti i cacciatori, che sono il nucleo un pochino più piccolo e in linea di massima, allora, sono di solito sono adulti o tardo adulti, che vuol dire che sono più vicini ai 60 che ai 50. Molti di loro sono casalinghe, molti hanno, risiedono al sud e nelle isole, e dove si informano per scegliere la loro lista della spesa, soprattutto su radio, quotidiani e TV, per cui i mezzi classici di comunicazione. Questi sono orientati soprattutto al prezzo, per cui se voi si sentite che il prezzo è il numero uno nella vostra scelta, bene, sarete dei cacciatori. Di solito vanno al discount, dove il prezzo in linea di massima è abbastanza garantito come più basso, e quando vanno in altri punti di vendita comprano prodotti in promozione. Insomma, sono dei veri e propri alla ricerca dell'offerta, del prezzo più basso, del prodotto che costa meno. Cacciatori. Poi ci sono i prudenti. In questo caso la maggioranza sono anziani, il 40% è over 65, molti di loro sono pensionati e la loro fonte di informazione principale sono i settimanali femminili, quindi direi che forse sono più pensionate che pensionati. Quello che vogliono è essere rassicurati, per cui di fatto vanno proprio a comprare delle cose che un po' che conoscono e che comunque abbiano un rapporto qualità-prezzo che loro ritengono adeguato, possibilmente verso il basso e più sui prezzi. Poi ci sono i pragmatici, che sono quelli, come dire, che non si fanno intortare da niente e da nessuno. di solito risiedono nel sud e nelle isole, non sono interessati alle novità, anzi, io gli scampi liberi dalle novità, comprano più o meno sempre le stesse cose, anche loro sono molto fedeli ai punti di vendita, in molti casi vanno al discount, ma anche ai piccoli supermercati, quelli di vicinato, quelli dove magari conoscono anche il proprietario, dove comunque chi sta dietro al banco li riconosce, eccetera. Il brand, la marca, in linea di massima non gli interessa granché, soprattutto quando appunto propone la novità. Invece sulla marca, quella classica, quella che hanno comprato da quando erano piccini, va sempre bene. Infine abbiamo poi i brand fan e gli esperti, che sono quelli che forse danno un pochino più di soddisfazione a chi si occupa di retail, certo, o di marca. Posso immaginare. I brand fan stanno in particolare al nord, in particolare nel nord-ovest. Sono adulti, dirigenti, quadri, impiegati, sono quelli che più si informano attraverso internet, ma anche i quotidiani hanno una buona parte, e addirittura qui compare il cinema. Cercano sempre il meglio, i brand fan vogliono il meglio di tutto, il prezzo non interessa granché, vogliono prodotti leader o premium, quindi vogliono essere sicuri, garantiti dal fatto che comunque spendo quello che devo spendere, però voglio il top. E di fatto vogliono anche tanto servizio dai prodotti che comprano, quindi sicuramente andranno a cercare piatti pronti o pronti da cucinare o comunque tutto quello che in qualche maniera gli dà una cosina in più, e vengono attirati non solo dalla pubblicità ma anche dal packaging, per cui se il pack è bello quasi quasi quindi lo deve compro. Essere anche un prodotto bello da vedere, esatto. Devono essere sedotti, va bene. E infine abbiamo gli esperti. Gli esperti sono quelli che proprio non li frega nessuno, perché vanno a vedere se c'è, cosa c'è dentro nei prodotti, leggono le etichette, scelgono con oculatezza e vogliono il reale valore dell'offerta. Quindi marca o non marca, anzi in molti casi preferiscono la marca dell'insegna, perché gli dà, come dire, un prezzo leggermente inferiore ma una garanzia in più rispetto alla fiducia che hanno all'insegna di riferimento. Vanno in ipermercati e supermercati, si informano ovunque, per cui da internet al quotidiano, e comprano solo se ne vale la pena. Tu Marta, che consumatore sei? Allora guarda, ho preso appunti mentre mi parlavi. Io sono una grande fan dei prodotti delle insegne, cioè nelle varie catene di supermercati compro spesso il prodotto dell'insegna, leggo molto le etichette, guardo anche su internet se non capisco le etichette, a volte vado però a fare la spesa anche nei discount, perché mi informo dove vengono prodotti i prodotti dei discount, perché spesso sono fatti dalle aziende normali. Ma ogni tanto però mi faccio sedurre anche dalle cose belle. Cioè io ho la presunzione di essere esperta, però ogni tanto scivolo su una cosa bella che così non serve a niente ma mi seduce. Beh, ma d'altronde questo credo che sia proprio parte il lavoro della marca, e poi il fatto che in fondo anche nei nostri cucine sono dei mini scaffali, quindi se ci metti dei prodotti che hanno un bel packaging, in fondo l'occhio vuole la sua parte. Sì, recentemente ho scoperto delle capsule di caffè che non mi piacciono particolarmente per il gusto, ma hanno delle scatole così carine che me le sono comprate tutte. Vabbè, stanno bene, poi ci metterò le mie solite, però mi piacciono moltissimo. Beh, poi quando arrivano gli amici glieli puoi sempre rifilare. Infatti, tu cosa sei, Cristina? Nonostante insomma tu sia un'esperta di marketing, ti sei vista in una di queste categorie? Ma guarda, direi che assolutamente mi posso mettere negli esperti, con una piccola parte di brand fan. Anch'io compro molto marca dell'insegna, ma di fatto compro guardando molto quello che c'è dentro nel prodotto, e anche come è stato prodotto e come sono state trattate le persone che l'hanno prodotto. E questa è una cosa veramente ottima. Filippo, in regia cosa sei? Secondo me Filippo è un brand fan, a lui piacciono le cose belle, si fa sedurre, dice chi se ne frega, io mi tratto bene. Infatti non potete sentirlo, però sta facendo dei gesti. Sì, lui si fa sedurre dalle cose belle e si fida se una cosa è di una marca buona. Straordinario. Cristina, che bello aver fatto questa chiacchierata con te, mi è piaciuta molto questa ricerca, così abbiamo giocato anche un po' con i tipi di consumatori. Noi però ci ritroviamo sabato prossimo ancora col Sabato del Villaggio, ancora con la nostra Maria Luisa Pezzali. Grazie Cristina Lazzati per essere stata con noi. Grazie Marta e buon pomeriggio a tutti. Ci ritroviamo tra poco noi. Il Sabato del Villaggio. E come sempre a quest'ora al Sabato del Villaggio è il momento di parlare di libri. Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, che sale. Si ferma sulle ginocchia che tremano e so perché. Che bella era questa canzone, questa La Notte di Arisa, mi era piaciuta veramente tanto. Allora immagino subito, beh non ci vuole molto a capirlo, che parleremo di qualcosa di notturno con la nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta, effettivamente parliamo del romanzo del momento. Veramente se non hai letto questo romanzo sei tagliato fuori dalle conversazioni, diciamo, cultural mondane. Quindi devo lasciar perdere tutto quello che sto leggendo, sì, e iniziare questo. Sì, okay. Anche perché è bellissimo. Cioè, non ci sono mezze misure, è bellissimo, quindi bisogna leggerlo. Si intitola Le nostre anime di notte, l'ha scritto Kent Aruff, pubblicato in Italia da una piccola casa editrice, NN Editore, che è nata a Milano un paio di anni fa, quindi sta diventando veramente un caso editoriale, perché Kent Aruff è stato uno scrittore americano, è morto alcuni anni fa, poco conosciuto, non è che abbia scritto tantissimo, e poi è stato pubblicato in Italia da questa piccola casa editrice. Già i primi tre libri che erano stati pubblicati, la cosiddetta trilogia della pianura, cioè Canto della pianura, Crepuscolo e Benedizione, negli ultimi 2-3 anni avevano avuto un grandissimo successo fra non solo gli addetti ai lavori e critici, ma anche fra i lettori forti. E adesso è arrivato il suo ultimo romanzo, tradotto appunto in italiano, Le nostre anime di notte. Marta, è una storia bellissima, posso dirtelo? Raccontamela subito. È proprio commovente. Allora, ci sono due vedovi, una lei che è rimasta vedova e un lui, che abitano in un immaginario paese del Colorado, perché appunto Kent Aruff ha ambientato tutti i suoi romanzi in questa cittadina inventata che si chiama Holt. Allora a un certo punto lei fa visita a questo vicino di casa, dice: devo farti una proposta. Dice: a che proposta? E lei dice: ce ne stiamo per conto nostro da troppo tempo, da troppi anni, io mi sento sola, anche tu lo sarai, mi chiedevo se ti andrebbe di venire a dormire da me la notte e parlare. Cioè lei propone di passare le notti insieme, ma non c'è niente, diciamo, di sessuale, e la solitudine che caratterizza chiaramente una certa età e la vicinanza e la voglia di avere vicina una persona dal punto di vista sì fisico, ma soprattutto mentale, affettivo, e quindi loro inizieranno a passare tutte queste notti insieme per parlare e appunto farsi compagnia. E allora lei a un certo punto scrive a Kent Aruff nel romanzo: se ci fosse qualcuno a letto con me, credo che ricomincerei a dormire bene. Una persona carina, un senso di intimità. Mi commuove solo questa frase. Guarda, è bellissimo, perché a un certo punto appunto dicono: le notti sono la cosa peggiore, per chi è solo la notte è il momento peggiore, per questo abbiamo scelto la canzone di Arisa. Chiaramente nel momento in cui questi due anziani iniziano a vivere questa insolita relazione, e nel paese insomma non è che l'accettano benissimo, ci sono molte critiche, bisognerà, leggendo il libro, capire se decideranno comunque di andare avanti per la loro strada oppure decideranno di piegarsi, diciamo, alle regole borghesi. Hai visto che così armeggiavo con l'iPad mentre tu stavi parlando? Perché l'ho già scaricato, l'ho già comprato. In tempo reale, fantastico. L'ho comprato in tempo reale perché lo voglio leggere. Beh, guarda, io lo consiglio sicuramente. Beh, uomini e donne, sai, io non faccio tanta distinzione di genere per quanto riguarda i libri. Posso dire però che si apprezza dai 30-35 anni in su, perché prima si fa un po' fatica a capire com'è l'animo umano quando ci si avvia, diciamo, alla fine della vita. Chiaro che se le leggi a 20 anni fai un po' fatica a capire come ti potrai sentire quando ne avrai più di 70, insomma. Certo, certo. Che bello. Allora, io questo l'ho già preso. Le nostre anime di notte. Questo, le nostre anime di notte. No, e poi hai detto, se non lo sai, se non l'hai letto, sei tagliato fuori, io così. Sì. La prossima settimana sarò già più aggiornata, perché l'avrò almeno cominciato. Allora, andiamo avanti con altri consigli, perché allora questo già sono a posto. Te lo sei accaparrato. Il problema è che Alessandra Tedesco mi fa venire una voglia di leggerli tutti, e avessi tempo di leggerli tutti, perché poi con Alessandra Tedesco voglio leggere tutti i libri, quando parliamo di serie voglio vedere tutte le serie, con Franco D'Assisi voglio vedere tutti i film, vabbè. Guarda, ti posso fare una promessa: se Kent Aruff non ti piace, ti pago il prezzo del libro. Va bene, va bene, va bene. Soddisfatti o rimborsati? Soddisfatti o rimborsati. Ma già ho capito che è il mio libro. Già ho capito che è il mio libro. E visto che Kent Aruff appunto aveva ambientato questa storia, anche la trilogia della pianura, in questo paese immaginario del Colorado, questa America di provincia, delle distese sconfinate, ho scelto un libro che in qualche modo potrebbe avere a che fare con quelle atmosfere e quei paesaggi. Si intitola Profondo Sud, un viaggio nella cultura del Dixie, l'ha scritto Seba Pezzani, pubblicato da Giulio Perrone, editore. Che cos'è? È un viaggio praticamente che Seba Pezzani, interprete, traduttore, scrittore, musicista, ha fatto negli Stati Uniti del Sud, quindi non so, in stati come il Texas, l'Alabama, la Carolina, del nord e del sud in questo caso, e ha raccontato sia il paesaggio sociale, ma anche e soprattutto quello culturale, i libri che sono nati in quelle zone, gli scrittori, la musica. Per esempio, chiaramente in Alabama ha parlato di Harper Lee, l'autrice famosissima del Buio oltre la siepe, quindi la questione razziale, ha parlato di Steinbeck, di chi ha scritto Furore, ma poi ha incontrato, lui conosce benissimo alcuni scrittori americani contemporanei come Jeffrey Deaver e John Lansdale, e quindi ne esce fuori un ritratto degli Stati Uniti del Sud che serve a far capire anche, per esempio, come Trump sia arrivato a vincere le elezioni presidenziali. Perché questo è uno dei miei cavalli di battaglia, che io dico sempre che i giornalisti stanno troppo a New York. Eh sì, perché bisogna girare poi appunto la provincia americana, perché l'America non è New York, non è Chicago, non è Los Angeles. E Seba Pezzani, da grande conoscitore di quei posti, l'ha fatto attraverso appunto la cultura, letteratura e musica. Bello, mi piace anche questo. Allora, altre suggestioni? Ah, ma vedo un nome che conosciamo bene, che è quello di Gigi Garanzini. Uno scarpino da calcio un po' demodé, un po' di un certo periodo. Guarda, questo è un libro molto bello. Nonostante io non sia appassionata di calcio, come ben sai, devo dire che Gigi Garanzini, oltre a essere, diciamo, un grande giornalista, è proprio una bella penna del giornalismo, una penna raffinata del giornalismo sportivo, oltre a essere un grandissimo signore. Cioè, noi possiamo dirlo perché l'abbiamo conosciuto, ha lavorato tanti anni qui a Radio 24. Gigi Garanzini ha scritto questo libro che si chiama Il minuto di silenzio, la storia del calcio attraverso i suoi eroi, pubblicato da Mondadori. E poi sulla copertina viene riportata la frase la Spoon River del pallone. Perché? Perché lui sostanzialmente ha fatto una storia dei protagonisti del pallone, dai calciatori naturalmente agli allenatori, di quelli che non ci sono più. È una sorta di passeggiata nella memoria. Perché si chiama Il minuto di silenzio? Lo spiega lui in una brevissima prefazione, dicendo: un minuto, due, tre nel caso dei personaggi più straripanti, e quanto serve alla lettura di ciascuno dei ritratti che naturalmente ci riportano le emozioni, retroscena, insomma, di questi personaggi. E Garanzini poi sottolinea: ma deve essere silenzio, senza che a funestarlo arrivi il bell'applauso di cui la società dello spettacolo non sa più fare a meno. Quanto ha ragione Gigi Garanzini. Guarda, Marta, scopri tante cose, appunto, anche io che non sono appassionata di calcio, per esempio ho scoperto Fritz Walter. Tu magari gli appassionati di calcio diranno: come, non lo conoscevi? No, non lo conoscevo. Che lui definisce: nella galleria dei grandi di Germania è considerato il capitano dei capitani, più su persino di Beckenbauer. Avrà parlato anche, non so, del nostro Berzot. Sicuramente ha parlato di Berzot, anzi, a proposito di Berzot, qua lo cerco, si scrive, gli bastava poco per accendersi. Già da commissario tecnico i suoi incontri con la stampa erano storie tese. L'avrà incontrato molte volte, ricordo anche un incontro proprio qui a Radio 24. Quindi insomma un bel libro, chiaramente, che si può leggere a spizzichi e bocconi, tanto sono appunto piccoli raccontini da poi un minuto. Appassionati di calcio, però secondo me anche chi ha voglia di avvicinarsi un po' a questo sport e conoscere questi personaggi che hanno fatto la storia del calcio. Ancora consigli, Alessandra. Guarda, questo è un romanzo per certi aspetti un po' tosto, nel senso che si intitola Quello che l'acqua nasconde, l'ha scritto Alessandro Perissinotto, scrittore torinese, pubblicato da PM. Rapidamente la trama: c'è un genetista di fama mondiale che passa 35 anni negli Stati Uniti e poi torna a Torino. Aveva lasciato Torino negli anni 80, nel 1981, quindi nel periodo in cui c'era il terrorismo. E quando rientra chiaramente in Italia si trova spiazzato, perché non ritrova più l'Italia che conosceva lui. Per alcuni versi, per fortuna, possiamo dire, incontra un anziano che lo riporta, diciamo, ad attraversare il passato, fatti storici del passato. Allora, non è un giallo, però diciamo che c'è un mistero che affonda le radici negli anni del terrorismo. Mm-hmm. E poi quindi c'è una ricerca della verità, eccetera. Quindi ogni volta che quest'uomo scopre una verità, insomma, è come se perdesse un pezzo di pelle, no? Come se si scorticasse e rimanesse più fragile nei confronti della vita. E fra i vari misteri che emergono, che ritornano alla mente di questo genetista, c'è una storia purtroppo vera in questo caso. Era Villa Azzurra, un padiglione di un ospedale di Torino, che è stato per tanti anni un manicomio per bambini. Accidenti. Ed è stato chiuso grazie poi alla legge Basaglia negli anni 70. Quindi, insomma, romanzo bello tosto, quello che l'acqua nasconde, lo consiglio. Uomini e donne al di sopra dei 30, anche in questo caso secondo me sì, diciamo che lo apprezziamo in più dai 40 in su, perché insomma ci sono echi del terrorismo, di fatti che in qualche modo di cui abbiamo sentito parlare anche nella nostra infanzia. Alessandra, chiudiamo con qualcosa di sorridente, ti prego. Allora, sorridente. Così per lasciare anche un po' di sorriso. Guarda, due consigli flash. Uno per bambini, si intitola Il pirata dei colori ed è dedicato a Van Gogh, al pittore Van Gogh, pubblicato da Yaka Book. Immagina praticamente che Van Gogh sia stato un pirata che si è messo a dipingere. Perché? Perché sostanzialmente in questa collana, che si chiama Ponte delle Arti, dedicata ai bambini fra i 4 e gli 8 anni, non si racconta proprio la vita dei pittori, ma diciamo si raccontano delle storie che hanno a che fare con alcuni elementi veri dei pittori. Quindi c'è Van Gogh, Delanois e così via. E poi sai che io, appassionata di cucina, l'ultimo consiglio, La cucina dei mercati in Toscana di Giulia Scarpaleggia, pubblicato da Guido Tommasi, editore. Allora, è un libro diviso per zone geografiche: Firenze, il Chianti, la Garfagnana, Lucca, la Maremma, eccetera eccetera. Ci sono le informazioni sui mercati con i consigli ad hoc, cioè proprio i mercati. Quindi non so, vai al mercato di Sant'Ambrogio a Firenze o di San Lorenzo sempre a Firenze e ti dice vai alla bancarella di Maria perché lì trovi i migliori pomodori, vai alla bancarella di Giuseppe perché lì trovi la migliore insalata, e poi ovviamente ci sono le ricette tradizionali della zona per cucinare le cose che vengono comprati nella cucina dei mercati in Toscana. Allora, siccome questo libro è molto bello, lo vedo anche proprio bello come oggetto, ti faccio la solita domanda, perché a me piace molto regalarli, magari devo andare a una cena, c'è già tutto pronto, non si può portare il vino o il dolce, allora mi piace anche regalare un bel libro di cucina. Quanto costa? 30, 30 euro. Perfetto, no, allora è accessibilissimo. 30 euro si può fare, sì, insomma, si può fare, dai, come regalo. Ecco, sono sempre le mie domande piene di poesia, ma visto questi libri sono sempre grossi, con delle belle foto, impaginati bene, non si sa mai, potrebbero anche essere delle spese più impegnative. Alessandra, l'ultimo consiglio è come sempre quello del cacciatore di libri. Cacciatore di libri ogni sabato alle 6:30, replica alle 22, questa settimana Amelino Tomb. Che meraviglia, che piena di poesia questa puntata, sia del nostro appuntamento con Il Sabato del Villaggio che questa sera con Il Cacciatore di Libri. Grazie Alessandra, al prossimo sabato. Baci. Il Sabato del Villaggio. Abbiamo parlato di libri, abbiamo parlato di consumi, adesso abbiamo una mezz'ora di Sabato del Villaggio nella quale parleremo di musica bella, di musica di oggi, di musica di ieri. Oggi è il 4 marzo e quindi non possiamo non cantare così. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Il 4 marzo è sempre il compleanno di Lucio Dalla, lo è anche da quando Lucio Dalla ci ha lasciato, sono già passati 5 anni, sembra ieri eppure veramente tanto tempo. In questi giorni Bologna sta ricordando tantissimo la scomparsa di Lucio Dalla, sta celebrando il compleanno di Lucio Dalla. E quindi io vorrei fare un salto a Bologna, allora ho deciso di chiamare un'amica che è una bravissima giornalista che vive a Bologna, ma che è soprattutto l'autrice di Grand Tour Bologna, guida d'autore per vivere la città da bolognesi, edita da Pendragon. Lei l'ha scritto insieme a Francesca Blesio. Buongiorno a Giorgia Olivieri, buongiorno Giorgia! Ciao Marta, ben trovata! Eccola qua Giorgia! In questi giorni io sto guardando tutti i tuoi social E vedo, ti vedo molto spesso a casa di Lucio Dalla. Anzi, come si trova la casa di Lucio Dalla? Perché non c'è mica scritto Lucio Dalla. I bolognesi lo sanno dov'è la casa di Lucio Dalla. Allora, è via D'Azeglio 15 e citofonare Domenico Sputo. Domenico Sputo, perché lui aveva questo nome sul citofono. Cosa sta succedendo in questi giorni a Bologna? C'è un gran fermento dopo gli anni passati, specialmente l'anno scorso in cui Lucio Dalla era stato dimenticato. Dopo le critiche, adesso qua tutti si stanno in qualche modo organizzando per ricordarlo, che può essere dalla persona che apre la finestra e fa ascoltare una canzone di Lucio Dalla. Anzi, io sono proprio alla finestra, perché tra le tante iniziative ci sono una serie di mezzi di trasporto che possono essere biciclette, carrelli della spesa, macchine che fanno parte del progetto A Casa di Lucio, che girano per la città facendo ascoltare delle note di Lucio Dalla, per cui se passa la macchina vi metto il telefono fuori dalla finestra e ve lo faccio sentire, perché è passato poco tempo fa. Perché quindi basta essere in questo momento a Bologna e uscire di casa per sentire aria e musica di Lucio Dalla? Esattamente, ma c'è la torre dell'orologio in Piazza Maggiore, che è diventata il Big Ben, per cui periodicamente c'è una nota, una voce insomma di Dalla, una canzone, qualcosa che si può sentire. Gli artisti di strada si sono organizzati, per cui per esempio via San Felice, che è una via molto bella dedicata allo shopping, è chiusa oggi pomeriggio perché ci sono appunto dei buskers che intonano canzoni. Via D'Azeglio è come se lui non se ne fosse mai andato, è pieno di turisti, gente che sta arrivando da tutta Italia e anche dall'estero, e io ho visto, come avrei visto probabilmente su Instagram, ci sono dei turisti appunto che fanno le foto addirittura con i graffiti che raffigurano Lucio Dalla, per cui sì, sicuramente c'è un gran fermento, si respira una bella energia, ed è sicuramente come se non se ne fosse mai andato, quindi è presente più che mai sicuramente. Giorgia, cos'è la casa di Lucio Dalla a Bologna? Perché noi sappiamo che lui sognava di fare una fondazione, aveva tanti progetti. La fondazione c'è comunque, quindi la fondazione è già in piedi e insomma la stanno gestendo appunto gli eredi, e in collaborazione con vari soggetti. Due i progetti principali che sono stati patrocinati dalla fondazione: uno appunto si chiama Casa di Lucio, che è quel progetto di cui vi ho parlato appunto poco tempo fa, che ha organizzato anche una serie di visite guidate diciamo d'autore, con dei giornalisti amici e giornalisti musicali che hanno accompagnato le persone che si sono prenotate in tempo, perché ahimè il sold out è stato raggiunto praticamente subito, nei luoghi cari a Lucio Dalla, quindi non solo più in casa ma anche tipo la Phonoprint, che tu conoscerai benissimo, certo, la Casa Natale, il ristorante da Vito e altri luoghi. Appunto tutto culminava in casa, la casa che quella che adesso è stata definita casa museo, perché è praticamente un Lucio Dalla all'ennesima potenza, quindi si può vedere, è pieno di presepi, è pieno di cimeli di carattere ecclesiastico, è pieno di opere d'arte, pieno di telegatti, pieno di poster e pieno di qualsiasi cosa. E vi posso dare una notizia che quelli che magari anche tra gli ascoltatori non sono riusciti a prenotare la visita, pur magari volendolo, da lunedì ci sarà la possibilità per il weekend di marzo di prenotarsi, per cui visitando il sito www.acasadilucio.it chi vuole può appunto curiosare. Io ci sono andata a un posto che devo dire che mi emoziona sempre, perché un po' perché non è stato modificato anche, no? Rispetto, anche perché la scomparsa di Lucio Dalla è stata molto molto molto improvvisa, e è pieno di lui, ma è pieno di storia della musica, pieno di storia anche, perché c'è lui in tutte le salse, in ogni occasione, dalle opere che ha in qualche modo o diretto, ha partecipato, insomma. Io è un'esperienza che consiglio sicuramente. Allora, intanto io segnalo che c'è anche al cinema Caro Lucio, ti scrivo dall'1 all'8 marzo, un omaggio anche per chi non fosse a Bologna e invece per chi lo può recuperare al cinema. Esattamente, fino all'8 marzo c'è questo film, che è l'altro progetto appunto patrocinato dalla fondazione, è scritto da Cristiano Governa, diretto da Riccardo Marchesini. Loro lo definiscono un docufilm, e è una cosa molto carina, perché in realtà sono i protagonisti delle canzoni di Lucio Dalla, in questo caso, che parlano, e continuano a scrivere al loro artista preferito delle lettere che la postina Egle, diciamo, apre, e quindi apre una, come si dice, ci sono delle piccole dei piccoli episodi che raccontano le canzoni più famose, da Caro amico ti scrivo a Mary Louise, Futura, e Anna e Marco, ovviamente, così. Quindi è diciamo una piccola licenza che si sono presi gli autori per parlare di Lucio Dalla. Loro l'hanno chiamato addirittura film epistolare. Secondo me è abbastanza calzante questa definizione. Quanti modi per ricordare Lucio Dalla. Un ascoltatore al 349-238-6666 ci scrive: io ho la Volkswagen Maggiolone di Lucio Dalla, e pensate che in questi giorni addirittura è stata diffusa la notizia che è in vendita lo yacht di Lucio Dalla, il Brilla e Billy, insomma lui lo possedeva dal 2003. In pochi se lo possono permettere. In pochi, diciamo, se lo possono permettere. Allora, valutato tra i 430.000 e i 559.000 euro. Devo dire che spero che vada non solo a un appassionato e a qualcuno che se lo possa permettere, ma anche a un appassionato di musica, perché qui dentro è nata tanta musica. C'era anche una sala di registrazione. Esattamente, infatti, sì, ecco, diciamo che speriamo, insomma, lanciamo un appello per gli artisti italiani. Infatti, magari qualche artista appunto di grosso calibro che voglia continuare a utilizzare lo yacht. Anche, perché no? Certo, lo yacht di Lucio Dalla, con questa sala di registrazione alla quale sono stati registrati anche dischi non solo suoi, anche insomma delle cose veramente veramente belle. Allora, Giorgia, io approfitto della tua conoscenza di Bologna per chiederti che cosa rappresenta Lucio Dalla per Bologna. Mi hai fatto sorridere, perché mi hai scritto così durante una delle presentazioni, e che qualcuno lo chiamava durante la presentazione Lucio, e tu hai detto, ecco, era evidentemente uno che non lo conosceva bene, perché nessuno lo chiamava Lucio. Ma no, ma in realtà questa è una polemica, no scherzo, tra amici che appunto che conosci anche tu. No, in realtà qua lo stanno chiamando tutti Lucio, lo stanno amici, insomma, era un pezzo di Bologna. Io me ne sono resa conto, diciamo, da quando non c'è più, perché Lucio Dalla, ovviamente, io poi sono nata nel 76, quindi ovviamente ha abbracciato gran parte della mia esistenza, no? Però mi sono resa conto che era come fosse, diciamo, una colonna sonora, come adesso, no? Quando tu giri e c'è una canzone di Lucio Dalla e la dai quasi per scontato. Lucio Dalla, quando io sono arrivata a Bologna, appunto, perché non sono nata qua, lo vedevi dappertutto, cioè non era una star. Cioè uscivi di casa, passeggiavi per il centro di Bologna e lo trovavi? Lo trovavi, se te passeggiavi in via D'Azeglio lo trovavi appunto seduto in uno dei due bar lì nella via, lo trovavi in giro col suo scooterone, quando poi appunto si andava alle conferenze stampa lui comunque c'era, non era una persona irraggiungibile, e proprio perché appunto faceva parte in qualche modo profondamente del tessuto urbano, faceva una vita tutto sommato anche proprio di paese, no, tra virgolette, per cui non è che c'aveva la schiera di fan che, insomma, lo prendeva per la pellicciotta e lo assaliva. Faceva parte proprio di Bologna. Quando se n'è andato, e per forza di cose siamo stati tutti bombardati di informazioni, aneddoti, foto tirate fuori dai bauli, progetti appunto che alcuni sono andati in porto, alcuni no, che appunto avevano con lui, perché lui non diceva no a nessuno, no? Lo sappiamo benissimo che tanti giovani artisti, certo, sono stati da lui in parte aiutati, e come si dice, insomma, ha coltivato molto anche l'entusiasmo di tanti, no? A coltivare la propria musica, la propria carriera, per cui quando se n'è andato e quando appunto faceva parte appunto dell'esistenza di molti, ma per esempio per me, che è stata una colonna sonora magari un po' data per scontata, devo dire che mi è proprio dispiaciuto di non averlo potuto apprezzare di più in vita, magari andando a un suo concerto, proprio perché in realtà era come se non potesse mai andarsene, no, da Bologna, e di fatto è così. Peccato che però appunto non ci sia più, e quindi questa perdita, sai, come tutte le cose care, no, le apprezzi probabilmente quando non c'è più. I bolognesi lo hanno sempre apprezzato tantissimo, lo stanno ancora piangendo tantissimo. Devo dire che è una perdita, insomma, si sente molto. Infatti sento davvero tanto affetto, e tra l'altro oggi stavo guardando, appunto facendo un po' di solite scorrerie nei social network, in tanti stanno andando proprio oggi a Bologna anche solo per respirare un po' l'aria magica di Lucio Dalla. Aspetta Giorgia che vorrei salutarti così. Allora Giorgia, intanto ricordo che hai scritto con Francesca Blesio Grand Tour Bologna, guida d'autore per vivere la città da bolognesi, edita da Pendragon. Allora, ci accompagnerà il tuo Grand Tour Bologna quando vorremmo andare magari a visitare anche la casa di Lucio Dalla. È davvero una bellissima occasione. Per me è un'opportunità, insomma, da non perdere. Se volete vedere un po' di quello che succede, nella pagina di Facebook e di Instagram noi lo raccontiamo. Ci piace appunto far vedere dove siamo, non tanto per far vedere, per vantarci tra virgolette, ma perché ci piacerebbe proprio far respirare anche a chi ci vede, appunto chi ci segue attraverso i social, la vita, insomma, un po' la nostra bolognesità, e quindi insomma, e di farvi venire magari un po' voglia di venirci a trovare, ecco. Grazie Giorgia. Adesso allora twitto tutti i link, che così ci sembrerà di essere lì anche oggi se non siamo a Bologna. Grazie a Giorgia Olivieri, a presto. Marta, ti aspettiamo. Arrivo prestissimo. Grazie Giorgia. Un pochino di traffico, poi saremo ancora insieme, ancora con un sacco di musica. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta Il sabato del villaggio. Un paio di messaggi al 349-238-6666. Carino Maurizio che scrive: ricordo di Lucio Dalla, concerto estivo al mare, esce sul palco e saluta amici di Bibione, buonasera. Naturalmente eravamo a Lignano, Bibione era il concerto della sera prima, splendido, stordito. E poi Roma, Maria Laura ci scrive: 4 marzo anche Antonio Vivaldi. Beh, evidentemente il 4 marzo è una data molto molto piena di musica, ma continuiamo con una grande, grandissima scoperta. Con la felpa blu e le scarpe da ginnastica, la Madonna sul divano, con gli occhi hai disegnato sul soffitto i tuoi pensieri, ragnatele ad opera di abili ingegneri, è lì che vuoi andare ad abitare. Sono contenta di poter conoscere, far conoscere agli ascoltatori del Sabato del Villaggio un cantautore che già, allora, se googlate il suo nome trovate che dappertutto è stato definito come già una delle rivelazioni del 2017, uno dei dischi più attesi del 2017 che finalmente è uscito, già uno dei nomi chiave del 2017, quindi noi siamo sempre sul pezzo, dobbiamo assolutamente avere in studio questo nuovo fenomeno. Io già vedo che sorride, perché secondo me questa cosa lo fa un po' sorridere, ma adesso glielo chiediamo. Lui si chiama Giorgio Poi. Ciao Giorgio. Ciao. Ma la prima domanda che ti faccio è quella che ti hanno fatto tutti in tutte le interviste. Fa niente Giorgio. Fa niente. Fa niente. Fa niente. Perché fa niente? Si intitola il tuo disco. Fa niente. Si intitola Fa niente perché è qualcosa che io ripeto a me stesso. nel senso, per non spaventarmi di agire, diciamo, per sminuire un po'. Io sono il contrario di Indole, ovviamente, sono uno che dà molto peso alle cose, che si fissa molto su magari dei dettagli. Allora, quindi prima di avere ansia dice esatto, niente. Prima dell'ansia la si blocca con un bel fa niente. Fa niente, deve uscire il mio nuovo disco? Fa niente, mi piace, lo posso usare anch'io, mi piace, certo. Fa niente. Allora, io l'ho detto, se si googla Giorgio Poi si trova dappertutto il fenomeno, quello che gli americani chiamano next big thing, cioè il prossimo nome di cui si parlerà dappertutto. A te che effetto fa questa cosa? Fa niente. Ma, scaramanticamente non ci credo, quindi staremo a vedere, vedremo, insomma, qualunque cosa. L'unica cosa importante per me è fare tanti concerti, andare in giro a suonare, questo è quello che adesso proprio mi va di fare. Sono contento di aver iniziato già. 10 febbraio è uscito il disco, che era stato comunque anticipato da alcuni brani che appunto avevano creato un po' questo hype, questa grande attesa. Per farlo capire subito agli ascoltatori che hanno già conosciuto Calcutta, che hanno già conosciuto un certo tipo di musica indie, ti possiamo mettere in quello scaffale lì nel negozio di dischi? Ce ne fossero ancora, andremo a pescarlo lì? Credo di sì, sì. Beh, si tratta di cantautorato italiano contemporaneo, quindi credo di rientrare in quella categoria. Hai detto cantautorato italiano, eppure tu hai una storia non del tutto italiana, cioè sì, sei italiano, sei nato a Novara? Nato a Novara, sì. Cresciuto a Roma? Sì. Studiato. Poi però ti sei trasferito a Londra e hai cominciato a fare musica lì. Sì. Quindi nella più classica delle tradizioni degli ultimi anni qualcuno ha scritto cervello in fuga, cioè sei andato prima in Gran Bretagna e poi in Germania. Non facevi musica, non facevi il cantautore italiano prima? No. Cercavo di fare, insomma, mi preparavo per fare il musicista, quindi ho fatto il conservatorio a Londra, ho studiato chitarra jazz, ho imparato, ho ascoltato, sapendo comunque di voler scrivere canzoni. Poi possiamo chiamarlo cantautorato o possiamo chiamarlo scrivere canzoni, perché fino a pochissimo tempo fa io ero uno che scriveva canzoni. Adesso, siccome lo faccio in italiano, sono diventato un cantautore. Certo, ma semplicemente cantautore vuol dire uno che scrive delle canzoni in facevi italiano. Facevi parte di una band che aveva fatto cose che erano piaciute molto e che già si cominciavano a sentire, ma certo non in italiano e non italiano. No, erano canzoni in inglese. Io considero questo disco in italiano come una tappa del mio percorso, che ho iniziato scrivendo in inglese in realtà. Ma ti è venuta nostalgia di casa per metterti a scrivere in italiano, con delle immagini anche legate al nostro paese? In un certo senso sì, si può parlare anche di nostalgia, seppure appunto è un sentimento un po' più complicato, perché nel momento in cui sono andato a vivere a Londra, ho cominciato a sentire una certa ammirazione per il mio paese in realtà, quasi a capirne certi aspetti che prima mi sfuggivano. E da qui mi è nata la voglia di provare a scrivere delle canzoni in italiano, ovvero di fare quello che io faccio, scrivere canzoni nella mia lingua. Ti hanno accostato ad altri nomi, appunto come quello di Calcutta, come quello di Io sono un cane, oppure sono andati a pescare al passato? Appunto, ne abbiamo appena parlato, hanno cominciato a parlare di Lucio Dalla, qualcuno ha parlato di Rino Gaetano. Tu dove vai a prendere i tuoi punti di riferimento, o dove sei andato a prendere i tuoi punti di riferimento quando ascoltavi e pensavi di far musica? Sicuramente Lucio Dalla è stata un'influenza importante per me, l'ho ascoltato tanto, sono innamorato delle sue melodie, delle sue parole, della sua voce. Dal punto di vista degli arrangiamenti ho ascoltato Alberto Radius, che mi piace molto, Lucio Battisti. Per i testi ho seguito un po', cioè ho ascoltato tanto, poi se mi ha influenzato probabilmente sì, perché è una cosa che succede automaticamente, inconsciamente. Paolo Conte mi piace molto. Sì, insomma, questi sono Piero Ciampi. Invece, per quanto riguarda i testi, mentre tanti tuoi colleghi fanno un po' di poesia delle piccole cose, tu invece spazi tantissimo, giochi anche con la lingua italiana, perché hai delle immagini che a volte sfiorano il nonsense, per divertirti, sì, proprio a scrivere le tue poesie. Sì, mi diverto. Poi questa per me era proprio una novità, scrivere in italiano, quindi poter prendere questa lingua che mi è familiare perché è la mia lingua, e che però ho parlato in questi anni con poche persone, perché la mia vita, appunto i miei rapporti di amicizia erano per lo più in inglese, sono tuttora per lo più in inglese. Adesso vivi a Berlino, però? Sì, fra Berlino e Londra ancora ci vado molto. Beh, straordinario. Ti toccherà venire di più allora in Italia a questo punto, perché hai fatto un disco in italiano, ti tocca venire. Sto sperando di ritrasferirmi in realtà dopo tanti anni. Quindi sto pianificando una fuga verso un ritorno a casa. Sì. Però insomma è molto lunga la strada che da Milano porta in paradiso, canti, è lunga la strada anche per tornare, in Italia. Perché è molto lunga la strada che da Milano porta in paradiso? Perché tu sei sempre in bilico tra la vita di tutti i giorni e le cose di tutti i giorni, come il fare le foto sui social, e invece una tensione un po' più, dei pensieri un po' più alti. Sì, quella era una frase che... Milano l'ho scelta così a caso, in realtà semplicemente mi piaceva posizionare quella storia a Milano. Volevo dire che era molto difficile uscire da quella situazione molto pratica, da quel luogo fisico, ed arrivare ad una estasi totale dei sensi e dell'amore. Questa è la scelta perché mi sembra una frase che fa un po' capire come ti esprimi tu e come la macchina friggitrice per i brutti pensieri. Sì. Quando compri una macchina friggitrice per i brutti pensieri, cosa succede? Ma succede che ti compri una corazza, ti compri qualcosa in cui annegare quello che ti fa stare male. E quindi li friggi, non li friggi più. E quando friggi muore tutto quello che c'era. E quindi fa niente ancora una volta. Un'altra volta. Vabbè, sì. Straordinario. Adesso cosa succederà, Giorgio? Cioè, quali sono i primi passi che farai in attesa, insomma, di questi grossi cambiamenti? Abbiamo iniziato a suonare, come ti dicevo, per ora abbiamo fatto un paio di concerti, ne abbiamo tanti altri nei prossimi fine settimana. Quindi questa sarà insomma l'attività principale, e che mi rende assolutamente felice. Grazie Giorgio. Giorgio poi fa niente, il disco si chiama Fa Niente, mi piace molto, voglio cominciare a usarlo anch'io, e poi davvero scoprirete che è un fenomeno, lo dicono tutti, allora noi l'abbiamo invitato al Sabato del Villaggio. Grazie Giorgio. Grazie a voi. Qualche minuto in più, perché adesso c'è il giornale radio delle 17, poi saremo ancora insieme perché la terza ora del Sabato del Villaggio è quella che diventa RadioTube.